Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, questa sera parliamo di uomini e macchine nella fabbrica digitale, parliamo della modernità, parliamo delle nuove imprese, delle imprese intelligenti, parliamo dell'automazione, dei robot, di tutte queste diavolerie, lasciatemelo dire, che stanno occupando anche la nostra vita quotidiana, che stanno interessandoci da vicino. È una società diversa quella in cui stiamo entrando, in cui siamo già entrati, e ne parliamo sulla base del libro Industria 4.0, scritto da Annalisa Magone e Tatiana Mazzari. Annalisa Magone è qui con noi questa sera. Buonasera Annalisa Magone. Buonasera. È giornalista, presidente di Torino Nord-Ovest, centro di ricerca che si occupa di imprese, lavoro e innovazione, con Tatiana Mazzari, sociologa dei media, ha scritto questo libro per Guerini e Associati. Allora, iniziamo dal titolo, Industria 4.0, che cosa vuol dire? È la quarta rivoluzione industriale, ovvero nel conto che è stato proposto delle fasi rivoluzionarie dell'industria, dopo il vapore, il motore a scoppio e l'informatica, è arrivata la quarta rivoluzione industriale, che è la cosiddetta rivoluzione del digitale, ovvero un mondo in cui le cose sono messe in comunicazione con le cose, le persone con le persone e le persone con le cose. Si parla infatti di internet delle cose in questa prospettiva, cioè della capacità delle macchine di parlare ad altre macchine e di adattare il loro comportamento. Ma che ci stanno a fare le persone? No, le persone sono determinanti, perché come ci ha ricordato una delle prime persone che abbiamo incontrato nella nostra ricerca, che in realtà somiglia molto a un'inchiesta giornalistica, la fabbrica senza fattore umano è una fabbrica stand alone, semplicemente non può esistere, perché tu non puoi mettere il pilota automatico, perché la fabbrica intelligente ha bisogno di adattarsi. Allora, questo libro è un viaggio nelle fabbriche intelligenti che ci sono già. Dove sono queste fabbriche intelligenti? Le fabbriche intelligenti sono dappertutto, in verità. Se ne parla sempre più spesso anche sulla stampa generalista, si raccontano casi utilizzando spesso il termine di eccellenza. In verità le fabbriche, ma anche gli uffici, perché Industria 4.0 riguarda anche i servizi, che si comportano in maniera intelligente, cioè che vanno intelligentemente verso un nuovo modo di fare la produzione o di costruire dei servizi, sono in ogni parte del paese e in ogni parte del mondo. Però questo libro ne esamina alcune che sono nella zona piemontese, diciamo. Sono nell'Italia, della parte alta dell'Italia, diciamo, siamo arrivati fino all'Emilia Romagna, ma per ragioni più pratiche che altro. Ne abbiamo esaminate alcune, scegliendole molto differenti fra di loro per comparto, per mercati, per dimensione, per filosofia anche. E le abbiamo scelte grandi, ma semplicemente perché quando si fa l'osservazione microscopica è meglio osservare un organismo grande che un organismo che un moscerino, perché nell'organismo grande vedi meglio le dinamiche. Ecco, ma è importante che queste fabbriche ci siano e quindi che l'Italia non sia in secondo piano in questa corsa verso appunto una modalità che è fatta di innovazione, che è fatta di concorrenzialità, che è fatta di capacità di offrire la migliore qualità e il miglior prezzo. No, allora, certamente l'Italia non è in secondo piano, nel senso che la sua industria è perfettamente in grado di stare dentro questo paradigma e infatti ci sta. Peraltro, Italia, il termine diciamo geografico va preso con le pinze, perché negli stessi casi che noi abbiamo esaminato, credo non ce ne sia nemmeno uno che non sia parte, forse uno che non è parte di un gruppo multinazionale a matrice molto diversa. Chi statunitense, chi tedesco, chi svizzero, chi francese, eccetera, eccetera. Per cui l'Italia sa benissimo stare dentro questi trend. Quello che differenzia l'Italia da altri paesi e da altre economie è che qui non c'è ancora non è ancora arrivata la spinta propulsiva, come si sarebbe detto una volta, di un piano di politiche pubbliche specificamente dedicato a questo problema e specificamente dedicato al fatto di far fare a tutta l'industria italiana il salto necessario per stare dentro questo sistema. Ecco, dal punto di vista proprio, diciamo così, di immagine, qual è l'immagine che si ha entrando in una fabbrica di questo modello, una fabbrica intelligente? Cosa è cambiata rispetto alla fabbrica tradizionale, magari alla catena di montaggio che abbiamo in mente quando si vedono i film ancora dove c'era appunto la catena di montaggio del vecchio Henry Ford? Faccio due esempi plastici che dimostrano dimostrano due modalità diverse con cui queste fabbriche intelligenti diventano fisiche, diventano visibili. Il primo caso è il caso di una fabbrica, di una vecchia fabbrica tradizionale preesistente che è stata trasformata in maniera digitale attraverso un processo che ha determinato il fatto di infilare dentro la fabbrica e nei processi un mare di tecnologia, ma contemporaneamente di ristrutturare nel complesso l'organizzazione, l'ingegneria organizzativa e quindi mettere mano in modo pesante alle competenze delle persone. Questa è una fabbrica che produce treni, molto celebre. Ma ci proviamo a fare anche il nome, non facciamo pubblicità. Saranno contentissimi perché in realtà meritano i complimenti. La fabbrica e lo stabilimento è lo stabilimento Alstom di Savigliano, che è un caso eccezionale perché è un caso in cui si vede già cosa può significare mettere un tablet o uno smartphone in maniera produttiva a un operaio in linea che monta un treno. Cosa succede dentro questa fabbrica? Che un prodotto tradizionalmente costruito in maniera artigianale, perché il treno è sempre stato costruito in modo artigianale e peraltro costruito da persone, da operai iper specializzati che sapevano interpretare il disegno degli ingegneri e anche, diciamo così, introdurre l'informazione mancante di questo disegno, perché avevano l'esperienza dei treni, l'avevano sempre costruita, avevano imparato dagli errori, il treno era lunghissimo, eccetera. Questa fabbrica ora è in grado di costruire dei treni attraverso un progetto di engineering pazzesco che digitalizza tutto a partire dalla concezione del disegno e poi lo trasporta in reparto. In reparto le workstation, cioè gruppi di operai montatori che costruiscono il treno a fette, perché il treno viene costruito a fette, poi quando la fetta è pronta il treno avanza lungo il binario e si procede con la fetta successiva. Queste workstation sono popolate da una mezza dozzina di operai montatori che sono intorno a un monitor touch dove è riprodotto l'ipertesto del treno con tutti i nodi, con tutte le informazioni necessarie anche per il montaggio. Intorno a loro le cassette con l'attrezzatura di montaggio e i componenti sono disponibili, alle cassette è attaccato un sensore che è attaccato a un filo che è attaccato a un computer. Ma è vero che la differenza maggiore che si avverte entrando in una fabbrica di questo tipo è che non ci sono più le tute blu ma ci sono le tute bianche? È vero. Quindi anche questo, anche visivamente, è un diverso modo di lavorare, diciamo che è un modo di lavorare forse anche un po' più umano, nel senso che la catena di montaggio era un po' disumana prima. È certamente un modo più confortevole, più sicuro, dove ci sono molti meno incidenti, perché questo è l'obiettivo, le posizioni sono più ergonomiche, non c'è rumore. Certamente è un tipo di fabbrica che non si può immaginare. E non ci sono lavorazioni pericolose o nocive come c'erano una volta nelle presse o nei riparti di verniciatura delle auto? Assolutamente no, ma questo già da tempo. Ecco, devo dire. In tutto il libro proprio si ripercorre il fatto che comunque la persona è un elemento fondamentale, perché chi dà intelligenza alle macchine è comunque la persona. Quindi è vero che la nuova fabbrica 4.0 abolisce dei vecchi posti di lavoro, ma ne crea anche di nuovi, ne crea di nuovi, di nuove professionalità. Che professionalità ci vogliono in queste nuove fabbriche? Nelle fabbriche certamente ci vogliono tutte quelle persone che sono in grado di mettere intelligenza nelle macchine, quindi fare la programmazione di queste macchine, ma che sono anche in grado di estrarre i dati dalla linea di produzione, interpretarli nel senso di costruire quei sistemi che consentano alla produzione di correggere errori o difettosità, oppure più semplicemente di essere più veloce, più efficiente, più performante. Quindi sulla base di questa realtà possiamo dire che il futuro dell'Italia è ancora nelle fabbriche, è ancora in quello che viene chiamato il manifatturiero, la possibilità di realizzare, di produrre qualcosa. Non è un'Italia che ha in questa prospettiva un'industria ancora forte, magari un'industria che in parte è controllata da società estere, perché però hanno in Italia la loro professionalità, la professionalità dei loro dipendenti. Beh, ma non c'è il minimo dubbio, anche perché anche nell'economia digitale del futuro i beni sono necessari per poter veicolare quei servizi preziosi che per l'appunto rappresentano il vero valore dell'economia digitale. Quindi il passo da fare è certamente una maggiore attenzione da parte del pubblico, una maggiore attenzione da parte dello Stato, e dal profilo invece delle università, di chi prepara queste professionalità. C'è un'attenzione alla formazione delle persone che siano capaci di entrare in questo nuovo mondo? Sì, comincia ad esserci una vera attenzione alla formazione di tecnici capaci di stare sulle tecnologie abilitanti, per esempio i tecnici capaci di far funzionare l'additive manufacturing, la stampa 3D come viene chiamata, perché ora non esistono ancora queste professionalità, non sono poi così diffuse, ci si forma ancora negli stabilimenti. C'è anche il tema però di fare in modo che le stesse imprese comprendano che stare dentro questo paradigma significa avere molta perseveranza e fare gli investimenti necessari. E c'è anche un altro elemento tipicamente italiano, anche se c'è in tutti i paesi, è quello del sindacato. Il sindacato è spesso visto come qualcosa che frena l'innovazione, che garantisce un po' la stabilità, che ha un po' paura di questo tipo di trasformazioni. Come vive il sindacato questa realtà? In realtà il sindacato comprende perfettamente, come tutte le altre organizzazioni, gli stakeholder coinvolti nel processo, che questo è un processo che va seguito e possibilmente anche anticipato. Il suo problema è fare in modo che diventi un'opportunità e non un costo. Ecco, quindi il problema è anche capire questo processo che cos'è, perché è indispensabile per la competitività dell'industria italiana, e quindi che tutti coloro che devono avere a che fare con questa nuova fabbrica sappiano prendere le misure giuste. Possiamo essere ottimisti sotto questo profilo. Direi senz'altro di sì. Grazie a Annalisa Magone per questa testimonianza che è raccolta poi in un libro, in questo libro Industria 4.0, edito da Guerini e Associati. Sono 176 pagine per 18 euro, è un viaggio all'interno dell'industria contemporanea, all'interno dell'industria italiana, alla ricerca appunto della modernità, di una modernità che comunque, questa è la cosa importante, presuppone, anzi esige, che ci siano nuove professionalità e la capacità delle persone che sappiano entrare, vivere e lavorare in queste nuove fabbriche. Grazie a Annalisa Magone, grazie a quanti ci hanno ascoltato, grazie a Luca Cremonese in redazione, a Pietro Bescapè in regia. L'appuntamento con Economia in Pagina per sabato prossimo.